Non so voi, non so voi, ma io sono arrivato alla mia abbastanza rispettabile età senza avere idea di cosa fossero le regole d'ingaggio. Sapevo che l'ingaggio era, come spiegano i vocabolari, l'atto dell'ingaggiare. Non ignoravo che questo verbo dall'antico francese engager, correlato a sua volta con un gage, pegno, che nella forma gaggio si ritrovava un tempo anche in italiano, indicava appunto l'impegno a svolgere un'attività definita a pena di un danno di carattere pecuniario. Avevo sentito parlare del premio d'ingaggio, che come spiega lo Zingarelli è la somma spettante a chi viene ingaggiato, specie atleti tesserati da società sportive, e avrei forse potuto osservare, se ci avessi pensato, che un valore analogo si può individuare anche nell'inglese engagement, che è sinonimo di fidanzamento. Una cosa che più impegnativa di così non può essere, e una volta comportava anche il rischio di rimetterci del danaro, la dote per gli inadempienti, per non dire del francese engagé, che sposta il problema nell'area ideologica come quando lo si applica la tua ragione agli intellettuali. Ma con questo, se si prescinde da un accenno piuttosto oscuro dei vocabolari alla mossa d'inizio nel gioco dell'hockey, lo spettro semantico di quella parola per me poteva dirsi esaurito. Non vi si trovavano accenni a regole precise, né si vedeva come tutto ciò potesse applicarsi alla guerra. A meno di riferirsi all'arruolamento di quanti avrebbero dovuto combatterla, che oggi, come sapete, non sono soldati di leva, anche se non ho mai capito perché non vi si possono definire mercenari, o alla figura di Berlusconi, che non sarà un intellettuale, ma nel non voler ritirare le truppe è sicuramente engagé. E con Bush, come è noto, si considera più engaged di ogni altro uomo di governo europeo. Ahimè, il linguaggio nella sua incessante attività di ricategorizzazione e riformulazione ha creato e ci ha imposto anche le regole d'ingaggio. Visto che il verbo ingaggiare, non so se per allusione al fidanzamento o meno, si può riferire anche all'inizio di un'attività ostile, come in ingaggiare battaglia, si definiscono con quella espressione i parametri che gli stati maggiori utilizzano per stabilire quando e come i militari in azione devono attaccare il nemico, per decidere in sostanza se sia il caso di sparare appena si avvista qualcuno che sia motivo di ritenere ostile, o se, come nei western di una volta, per fare fuoco bisogna aspettare almeno che l'avversario abbia la mano sul calcio della pistola. È un'accezione un po' peculiare, quasi gergale, ma è entrata nelle nostre conversazioni di tutti i giorni per via dell'abitudine tipica dei media oggi di imporre a tutti gergalità e usi specialistici, senza prendersi necessariamente la briga di spiegarne prima il significato. Per questo oggi siamo avvezzi, esempio a caso, a leggere sui giornali dei fatti di sciiti e sunniti, senza avere in genere quel minimo di competenza teologica che ci permetterebbe di capire cosa significano quei due termini, tanto è vero che di solito li consideriamo riferiti a due etnie, e non ci saziavamo appena ieri delle prediche sul tasso di sconto e sulla necessità di abbassarlo, anche se su cosa fosse un tasso di sconto e su come diavolo si potesse spingerlo in giù avevamo quasi tutti delle idee piuttosto confuse. Poco male, eh? Quello di fingerci più dotti di quanto siamo, ricorrendo con simulata disinvoltura ai linguaggi tecnici, è tutto sommato un peccato veniale. I veri esperti non se ne hanno a male e sorridono appena delle gaffe verbali che questa abitudine più delle volte comporta. Salvo naturalmente quando non di gaffe si tratta, ma di reticenze volute, perché un gergo di qualsiasi tipo ha due funzioni base: quella di facilitare la comunicazione, di renderlo affidabile all'interno del gruppo che lo ha creato e lo adotta, e quella di escluderne, più o meno radicalmente, chi di quel gruppo non fa parte. In questo secondo caso, i gerghi hanno più o meno la stessa funzione degli eufemismi. Nel senso che è ovvio che parlare di regole d'ingaggio e della necessità di modificarle è molto più tranquillizzante per tutti che chiedersi se ai nostri ragazzi, i militari che il governo ha mandato irresponsabilmente nell'inferno dell'antica Babilonia, non sia il caso di consigliare se vogliono portare a casa la pelle ed aprire il fuoco a vista su qualsiasi bipede iracheno si muova, o se non sia meglio prescrivergli un atteggiamento rigidamente difensivo, anche a rischio di subire le perdite che in certe situazioni quell'atteggiamento comporta. Spesso in guerra l'alternativa che ci si pone è quella di uccidere ed essere uccisi. E non sono queste problematiche che un ceto politico attento soprattutto ai sondaggi ami particolarmente affrontare. Anche perché, come ha dimostrato nei giorni scorsi le parole del ministro della difesa, di quello degli esteri, del presidente del consiglio, coloro, pur avendoci trascinati in guerra, sostengono negare che la guerra ci sia. Ed essendo la nostra, a loro avviso, una missione di pace, non è possibile che chi la esercita ammetta di valersi di regole che con la pace non hanno a che fare. In Italia, d'altronde, si fa sempre così. Anche quando la serietà della situazione dovrebbe escluderlo, si va avanti improvvisando, facendo una cosa e dicendone un'altra, nella fiducia di riuscire a nascondere qualsiasi realtà spiacevole dietro una spessa cortina di parole, le regole d'ingaggio. Se qualcuno è destinato a lasciarci la pelle, pazienza. Non mancheranno, non sono mancate parole neanche per lui. Anche questa è una regola, ma una regola naturalmente che la dice lunga sul livello morale di chi la applica.